Mango Tart legge Mana Cold di Sending You. Capitolo 1. Hermione aveva perso da tempo la speranza di vedere nell'oscurità. Per un po' aveva pensato che forse, se avesse lasciato allattare gli occhi, alla fine qualcosa le sarebbe diventata visibile. Non c'erano barlumi di luce lunare che arrivassero così in profondità nei sotterranei. Niente torcia nei corridoi fuori dalla cella, solo sempre più buio, fino a portarla a chiedersi, a volte, se non fosse diventata cieca. Aveva esplorato ogni centimetro della cella con le punte delle dita. La porta, sigillata con la magia, non aveva serrature che potesse scassinare. Anche se lei non aveva altro che paglia e un vaso da notte. Aveva annusato l'aria nella speranza che potesse indicarle qualcosa. La stagione, il profumo del cibo o pozioni. Era stantia, umida, fredda, senza vita. Aveva sperato che, se avesse controllato abbastanza attentamente, avrebbe trovato una lastra di pietra allentata nel muro. Qualche scomparto segreto che nascondesse un chiodo, un cucchiaio o anche un po' di corda. A quanto pareva, la cella non aveva mai ospitato prigionieri audaci. Nessun graffio a segnare i giorni, nessun mattone allentato. Niente. Nient'altro che oscurità. Non riusciva nemmeno a parlare ad alta voce per alleviare quel silenzio incessante. Era stato il regalo d'addio dell'Umbridge, dopo che l'avevano trascinata nella cella e le avevano controllato le manette un'ultima volta. Stavano per andarsene quando aveva fatto una pausa e sussurrato «Silenzio!». Pungolandole il mento con la bacchetta in modo che potesse guardarle, le aveva detto «Capirai presto!». Aveva ridacchiato, lasciandole una zaffata del suo alito stucchevole e zuccheroso sul viso. Era rimasta nel buio e nel silenzio. Se l'erano dimenticata, non era mai sceso nessuno. Non l'avevano torturata, né interrogata. C'era solo solitudine, buia e silenziosa. I passi apparivano, casualmente. Non riusciva nemmeno a tenere il conto del tempo. Ripeteva ricette di pozioni, tecniche di trasfigurazione, ripassava le rune, le filastrocche, muoveva le dita mentre imitava i movimenti delle bacchette, ripetendo l'inflessione degli incantesimi. Contava all'indietro da 1000, sottraendo i numeri primi. Cominciò ad allenarsi. Apparentemente a nessuno era venuto in mente di limitarla fisicamente e la cella era abbastanza spaziosa da permetterle di fare la ruota in diagonale. Imparò a fare la verticale. Trascorse quelle che le sembrarono ore a fare flessioni ed esercizi chiamati burpees, di cui suo cugino era ossessionato. Scoprì che poteva infilare i piedi nelle sbarre della porta della cella e fare gli addominali mentre era appesa testa in giù. L'aiutava a spegnere la mente, il contare, lo spingersi a nuovi limiti fisici. Quando le braccia e le gambe diventavano gelatina, si accasciava in un angolo e cadeva in un sonno senza sogni. Era l'unico modo per far sì che la fine della guerra smettesse di passarle davanti agli occhi. A volte si chiedeva se fosse morta. Forse quello era l'inferno. Buio e solitudine. E nient'altro che i suoi peggiori ricordi sospesi davanti agli occhi per sempre. Quando finalmente ci fu un rumore, fu assordante. Lo stridore e lontananza di una grossa porta abbandonata che si apriva. Poi la luce. Una luce gigante, accecante. Era come se l'avessero pugnalata. Si ritirò di nuovo nell'angolo e si coprì gli occhi. «È ancora viva!» sentì dire all'Umbridge in tono sorpreso. «Tiratela su! Vediamo se è ancora lucida!» Mani ruvide la trascinarono via dall'angolo e cercarono di allontanarle le mani dagli occhi. Anche con le palpebre ben chiuse, il dolore dato dalla luminosità improvvisa sembrava un coltello che le penetrava nelle cornee. Tirò le mani indietro per premersele di nuovo sugli occhi, strappando le braccia dalla presa dei suoi rapitori. «Oh, santo cielo!» disse la Umbridge con tono tagliente e impaziente. «Sopraffatti da sangue sporco senza bacchetta! Petrificus totalus!» Si sentì irrigidire. Per fortuna rimase a occhi chiusi. «Saresti dovuta essere abbastanza intelligente da morire. Crucio!» La maledizione le squarciò il corpo immobilizzato. L'Umbridge non era la strega più forte da cui era stata maledetta, ma faceva sul serio. Il dolore la attraversò come il fuoco, incapace di muoversi, come se le sue interiore si attorcigliassero in nodi, cercò di sfuggire al dolore. La testa le pulsava mentre il dolore cresceva senza alcuno sfogo. Dopo un'eternità cessò, eppure non lo fece davvero. La maledizione era finita, ma l'agonia le rimaneva avvolta dentro, come se i nervi le fossero rimasti scoperti. Poteva sentire il cervello spingersi per scappare, per liberarsi dall'agonia sospesa. Le sarebbe bastato rompersi, semplicemente rompersi, ma non poteva. «Portala su per una valutazione. Fammi sapere subito cosa dice la guaritrice». Stava levitando, ma il mondo rimaneva una macchia di suoni e agonia. C'era così tanto rumore. Sembrava che le vibrazioni le graffiassero la pelle. Doveva essere stata tenuta all'interno di una barriera, perché improvvisamente l'aria esplose di rumore e luce. Cercò di resistere concentrandosi solo sul ticchettio dei passi, dritto per 10 passi, a destra, 30 passi, a sinistra, 15 passi, stop. Una delle guardie che la faceva levitare bussò ad una porta. «Avanti!» disse una voce ovattata. La porta si aprì con uno stridio. «Mettetela lì!» Hermione sentì il suo corpo cadere su un lettino medico. Sentì una bacchetta pungolarla. «Che incantesimi le avete fatto?» «Petrificus totalus e una crociatus», rispose una nuova voce. Le sembrò di riconoscerla, ma aveva la mente troppo presa dall'agonia per riuscire ad assegnarla a qualcuno. «Mentre era immobilizzata!» Il guaritore le sembrò irritato. «Per quanto tempo?» «Un minuto, forse di più». Un sibilo di irritazione. «Ne abbiamo a malapena a sufficienza così come sono. L'Umbridge sta cercando di distruggerle. Legatela, altrimenti si farà male quando le toglierò gli incantesimi». Hermione sentì delle cinghie di cuoio legarle ai polsi e le caviglie e qualcosa le fu spinto a forza tra i denti. Qualcuno le batté la bacchetta sulla tempia. «Yuhu, piccola strega, se la tua mente non è già in poltiglia, questo farà male, molto male, ma...» continuò allegramente. «Dopo ti sentirai meglio. Finite incantatem». Il mondo di Hermione esplose. Fu come essere colpita di nuovo con la Crociatus. Finalmente in grado di muoversi, sobbalzò, urlò e si dimenò. Le cinghie che la tenevano giù le impedivano a malapena di inarcarsi all'indietro mentre si contorceva, si dondolava e gemeva in agonia. Sembrò passare un'eternità prima che potesse smettere di agitarsi. La voce aveva ceduto molto prima. I muscoli si contraevano ancora violentemente e il petto le si gonfiava di singhiozzi. «Va bene, ora potete andare», disse il guaritore mentre la pungolava di nuovo con la bacchetta. «Ma dite all'Umbridge che se ne arriva un'altra come questa, la denuncerò per sabotaggio». Aprì un occhio e guardò le guardie andare via. Aveva la vista appannata. Tutto era angosciosamente luminoso, ma riusciva a distinguere forme vaghe e la luce le faceva meno male. O meglio, altre cose le facevano più male degli occhi. Il guaritore tornò da lei. Era un uomo grosso. Non lo riconobbe. Strizzò gli occhi cercando di vederlo chiaramente. «Oh, bene. Segui il movimento». Le girò il polso per appuntarsi il numero sulle manette. «Numero 273. Tirò fuori da uno scaffale una cartella stretta e aggrottò la fronte mentre la sfogliava. «Sangue sporco, ovviamente. Studentessa di Hogwarts. Oh, ottimi voti. Maledizione sconosciuta all'addome al 5° anno. Non un buon segno. Beh, vedremo con cosa abbiamo a che fare». Seguì un complesso incantesimo diagnostico su di lei. Lei vide le tracce magiche fluttuare in alto e varie sfere di colore disporsi lungo il suo corpo. Il guaritore le osservò e scribacchiò sulla cartella. Era particolarmente interessato al suo addome, in particolare a un globo tinto di viola. «Cosa?» raspò lei intorno al bavaglio che aveva ancora tra i denti. «Cosa stai guardando?» «Oh, diverse cose. La tua salute fisica, soprattutto. Sei in condizioni straordinariamente buone. Dove ti hanno tenuto?» Anche se niente di tutto ciò ha importanza, se non riesco a capire cos'è questa vecchia maledizione che ti porti ancora dietro. Lavorò in silenzio per diversi minuti prima di ridacchiare. Con un complicato movimento della bacchetta e un incantesimo che non riuscì a capire, vide un flusso scuro di viola entrarle nello stomaco. Le sue interiora cominciarono improvvisamente a ribollire e sentì qualcosa che si contorceva vivo tra i suoi organi, qualcosa che strisciava dentro di lei. Prima che potesse urlare, il guaritore fece un incantesimo e una luce rossa la colpì. Il contorcimento si fermò e fu come se qualcosa si fosse dissolto dentro di lei. «Un incantesimo sbagliato», le spiegò lui. «Qualcuno voleva che ti mangiasse viva, ma per fortuna la maledizione era incompleta. L'ho sistemata e poi annullata. Non c'è di che!» Hermione non disse nulla. Dubitava che qualcosa di tutto ciò fosse a suo beneficio. «Bene, sei autorizzata, anche leggibile. Penso che ci sarai molto utile, anche se quella Cruciatus richiederà un po' di terapia prima che tu possa riprenderti, probabilmente. Metterò una nota». Con un colpo di bacchetta le cinghie intorno ai polsi e alle caviglie si allentarono. Hermione si sedette lentamente. I muscoli si contraevano ancora involontariamente. Aprendo la porta, il guaritore disse: «È passata. Potete portarla via». Si avvicinò alla sua scrivania. Tutto era stranamente luminoso. Strizzò gli occhi. Così luminoso che riusciva malapena a vedere oltre la luce e distinguere le forme intorno a lei. Con mano tremante si tirò fuori il bavaglio tra i denti. Questi iniziarono immediatamente a battere. Si rese conto di avere terribilmente freddo. Troppo freddo. La guardia si stava avvicinando a lei per afferrare il suo braccio e condurla via. Lei scivolò dal tavolo e cercò di alzarsi. Vacillò. «Sir...» Era la sua voce? Non ricordava com'era la sua voce. Le parole le uscirono biascicate e tutti gli oggetti luminosi della stanza sembrarono allungarsi e distorcersi insieme al guaritore davanti ai suoi occhi, come se fosse caduta in una boccia per pesci rossi. Il guaritore si voltò verso di lei con aria interrogativa. «Credo di star...» Le parole non sembravano riuscire ad uscirle attraverso i denti digrignanti. Provò di nuovo. Shock. L'oscurità iniziò improvvisamente a penetrare ai margini della sua visione. Tutte le cose luminose svanirono, finché tutto ciò che poté vedere fu il volto preoccupato del guaritore che fluttuava davanti a lei. Sentì gli occhi rovesciarsi e cadde. Nessuno la prese. Colpì l'angolo del tavolo con la testa. Forte. «Cazzo!» imprecò la guardia. Anche il suono sembrava traballante e distorto. L'unica cosa che Hermione ricordava era che pensò potesse essere Marcus Flint. Riprendere conoscenza fu come affogare nella farina d'avena. Non era sicura del perché fosse il primo paragone che le era venuto in mente. Lottò per trascinarsi in superficie, muovendosi verso voci ovattate, cercando di dar loro un senso. 16 mesi in isolamento e deprivazione sensoriale. A detta di tutti dovrebbe essere completamente pazza, se non morta. Non c'è documentazione su di lei. È come se l'aveste gettata in un pozzo senza fondo. Guardi questa cartella. Il prigioniero 187 nel letto accanto. Vede quante pagine ci sono? Visite di controllo, analisi sul sangue, test di salute mentale, pozioni prescritte. Ho persino delle foto di lei per vedere com'era prima che venisse mutilata. Questa qui, invece, niente. È stata registrata come assegnata a questa prigione e poi è scomparsa. Nessuno l'ha vista. Non c'è nemmeno prova che abbia mangiato qualcosa. Per 16 mesi. Spiegatemi com'è successo». Ci fu una pausa e poi Hermione sentì la voce soave della Umbridge cominciò ad agitarsi. «Ci sono così tanti prigionieri qui. Non c'è da stupirsi se uno o due riescono a passare inosservati come la signorina Granger». «Miss Granger?» L'altra voce era improvvisamente inorridita e balbettante. «Come la Granger? Sapevi che era lei? Hai cercato di ucciderla!» Cosa? No, non lo farei mai, non lo farei mai. Spetta al signor oscuro decidere i loro destini. Io sono solo una serva. Pensavi davvero che il nostro signore si sarebbe dimenticato di una prigioniera come Hermione Granger? Pensi che sarà indulgente se verrà a sapere quello che hai fatto? Non volevo che andasse avanti così a lungo. L'avevo pensata semplicemente come una situazione temporanea. Tu non la conosci, non sai di cosa è capace. Dovevo essere sicura che non potesse scappare o raggiungere l'esterno. Il castello era ancora in fase di ristrutturazione. Poi, quando tutti i preparativi erano stati completati, lei è sparita dalla mia mente. Non sfiderei mai, signor oscuro. Il successo dell'impresa che nostro signore ha iniziato poggia sulla tua testa e sulla mia. Se scopro anche solo un accenno del fatto che tu abbia fatto qualcosa per minare il suo programma, ti denuncerò immediatamente a lui. Per come stanno le cose, la Granger è ora interamente sotto la mia giurisdizione. Non devi avvicinarti a lei senza il mio permesso. Se le succede qualcos'altro, da parte di chiunque altro, ne riterrò te responsabile. Ma lei ha molti nemici. La voce dell'Umbridge vacillò. Allora ti consiglio di sorvegliare attentamente la tua prigione. Il signor oscuro l'ha nominata espressamente nei suoi piani. La porterò davanti a lui oggi stesso, se questo è ciò che serve per avere successo. Ho lavorato più a lungo e più duramente di te per arrivare dove sono, direttrice. Non permetterò a nessuno di mettersi sulla mia strada. Vai a prendere gli altri. Il signor oscuro si aspetta un rapporto sulle idonee stasera e io ho sprecato metà della mia giornata a sistemare il tuo errore. Una serie di passi che svanivano. Quelli dell'Umbridge, pensò e sperò Hermione. Aprì un occhio, cercando di osservare di nascosto l'ambiente circostante. «Sei sveglia?» «Non abbastanza di nascosto». Aprì completamente gli occhi e guardò la sagoma sfocata di una guaritrice in piedi sopra di lei. Si chinò più vicino per studiarla ed Hermione riuscì a distinguerla in qualche modo contro luce. Una donna anziana, severa, con una toga che ne denotava l'anzianità medica. «Allora tu sei Hermione Granger?» Non era sicura di come rispondere al commento. La conversazione che aveva ascoltato non aveva fatto luce su ciò che si voleva da lei. Era importante per qualche terribile macchinazione di Voldemort. Non doveva essere morta, né pazza, e la volevano in salute. Probabilmente non l'avrebbero torturata di nuovo. Rimase in silenzio, sperando che la guaritrice fosse il tipo di persona che continuava a parlare quando la gente non rispondeva. Ne rimase delusa. «Dovrò chiederlo a te, visto che nessun altro sembra saperlo. Come fai ad essere ancora viva? Come sei riuscita a rimanere sana di mente?» «Io non so», rispose dopo aver aspettato diversi momenti. La voce suonava più profonda e traballante di quanto ricordasse. Le sue vocali erano come atrofizzate. Era difficile scandire le parole. Le consonanti si fondevano insieme e poi si fermavano, come se fosse necessario uno sforzo per spingerle fuori. «Ho fatto aritmanzia mentale. Ho recitato pozioni. Ho fatto del mio meglio per non scivolare via.» «Notevole», mormorò la guaritrice, scribacchiando delle note in una cartella. «Ma come hai fatto a sopravvivere? Non c'è traccia di nessuno che ti abbia nutrito. Eppure sei perfettamente sana dal punto di vista nutrizionale.» «Io non lo so. Il cibo appariva. Non c'è mai un'ora stabilita. Ho pensato che fosse intenzionale.» «Cosa era intenzionale?» «L'irregolarità. Pensavo...» Sentiva la gola stanca nello sforzo di continuare a parlare. «Facesse parte della deprivazione sensoriale per impedirmi di sapere quanto tempo era passato.» La voce diventava sempre più sottile ad ogni parola. Oh, sì, sarebbe stato creativo. E le tue condizioni fisiche? Non sei mai stata portata via da quella stanza, eppure hai un tono muscolare migliore della metà dei miei guaritori. Come diavolo è possibile? Quando non riuscivo più a sopportare di pensare, mi esercitavo fino a non poterne più. Che tipo di esercizi? Qualsiasi cosa. Salti, flessioni, crunch. Qualsiasi cosa che mi stancasse. Per non sognare. Altri scarabocchi. Che tipo di sogni stavi cercando di evitare? Hermione mancò leggermente il respiro. Le altre domande erano state facili. Quella si avvicinava troppo a qualcosa di reale. Sogni di prima. Prima. Prima di venire qui. Disse piano, furiosa. Chiuse gli occhi. La luce le stava causando una forte emicrania. Certo. Altri scarabocchi. Il suono le fece trasalire i muscoli. Resterai qui in infermeria finché gli effetti collaterali delle torture non saranno completamente passati. Farò venire anche uno specialista per capire che cosa è successo al tuo cervello. Hermione aprì gli occhi di scatto. C'è. Esitò. C'è qualcosa che non va in me. La guaritrice la fissò contemplativamente prima di agitare la bacchetta sulla sua testa. Sei stata tenuta in totale deprivazione sensoriale per 16 mesi. Il fatto che tu sia ancora lucida è un miracolo. Gli effetti di una tale esperienza difficilmente possono essere evitati, specialmente date le circostanze precedenti al tuo arrivo. Immagino che tu abbia studiato un po' di guarigione durante la guerra. Sì, disse lei, abbassando lo sguardo sulla coperta che aveva in grembo. Era logora e aveva un odore così forte di antisettico che le veniva da vomitare per l'assalto olfattivo. Allora sai com'è fatto un cervello magico normale e sano. Questo è il tuo. Un semplice tocco della bacchetta generò l'immagine magicamente proiettata del cervello di Hermione. Strinse gli occhi. Sparse nella proiezione c'erano piccole luci incandescenti, alcune raggruppate, altre sporadiche, su tutto il cervello. Non aveva mai visto una cosa simile. Cosa sono quelli? La mia ipotesi migliore è che siano stati di fuga creati magicamente. Cosa? Ad un certo punto, durante il tuo isolamento, la tua magia ha cominciato a cercare di proteggerti. Dato che non potevi usare la magia all'esterno, si è interiorizzata. Hai lavorato duramente per evitare, come hai detto tu, di scivolare via. Tuttavia la mente non è attrezzata per gestire una cosa del genere. La tua magia ha murato parti della tua mente. Come risultato ti ha frammentata. Normalmente una fuga riguarda tutto il cervello, ma questa sembra quasi chirurgicamente precisa, anche se la guarigione della mente non è la mia specialità. Hermione la fissò con orrore. Vuoi dire che mi sono dissociata? Qualcosa del genere. In realtà non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Potrebbe essere una nuova malattia magica. Ho personalità multiple? Si sentì improvvisamente svenire. No, hai semplicemente isolato parti della tua mente. Credo che la tua magia intendesse proteggerle dagli attacchi mentali, ma per estensione ha impedito anche a te di accedervi. Hermione si arrovellò internamente. Cosa non ricordo? Beh, non ne siamo del tutto sicuri. Dovrei essere tu a scoprire ciò che hai dimenticato. Come si chiamano i tuoi genitori? Hermione si fermò un momento, cercando di capire se la domanda fosse basata sulla ricerca di una diagnosi o sul riuscire ad estrarre le informazioni. Il sangue le defluì dal viso. Non lo so, disse, sentendosi improvvisamente a corto d'aria. Ricordo che avevo dei genitori, erano babbani, ma non riesco a ricordare nulla di loro. lottando per reprimere il panico che le saliva dentro, fissò implorante la guaritrice. Tu ne sai qualcosa? Temo di no. Proviamo con un'altra domanda. Ti ricordi la scuola che hai frequentato? Chi erano i tuoi migliori amici lì? Hogwarts, Harry e Ron, disse lei abbassando lo sguardo mentre le si stringeva la gola. Le dita le si contraevano in modo incontrollato. Bene. Ti ricordi del preside? Silente. Ti ricordi cosa gli è successo? È morto, disse Hermione stringendo gli occhi. Anche se i dettagli erano confusi, era sicura. Sì. E ricordi le circostanze della sua morte? No. Ricordo che era stato reintegrato come preside dopo che venne confermato che tu sai chi era tornato? Interessante. Altri scarabocchi. Cos'è che ricordi della guerra? Era una guaritrice. In ospedale c'erano così tante persone che non sono riuscita a salvare. Ricordo di averle perse. Qualcosa non ha funzionato. Harry è morto. L'hanno impiccato alla torre di astronomia e l'abbiamo guardato marcire. Hanno impiccato Ron e la sua famiglia accanto a lui. E Tonks e Lupin li hanno torturati fino alla morte. Poi mi hanno messo in quella cella e mi hanno lasciato lì. Tremava mentre parlava. Anche il lettino tremava ed emetteva un rabbioso scricchiolio. La guaritrice non sembrò accorgersene e scribacchiò altre note. Questo è insolito e interessante. Non ho mai sentito parlare di uno stato di fuga come questo. Sono ansiosa di sentire cosa ne pensa uno specialista. Lieta di essere così interessante, disse Hermione, il labbro arricciato mentre apriva gli occhi per fissarla. Su via, cara. Non sono del tutto insensibile. Guardala da una prospettiva medica. Se ci fosse qualcosa nel tuo passato da cui sarebbe logico che la tua mente si proteggesse, sarebbero le conseguenze della guerra, da cui sei chiaramente traumatizzata. Invece, cosa hai deciso inconsciamente di proteggere? Le identità dei tuoi genitori e la strategia di guerra dell'ordine. La tua magia non ha scelto di proteggere la tua psiche, ha scelto di proteggere tutti gli altri. È molto interessante. Hermione supponeva che lo fosse, ma sembrava tutto troppo. Il solo fatto di poter vedere di nuovo era travolgente. Essere in grado di parlare, essere fuori dalla cella, tutto sembrava troppo. Troppo crudo, troppo luminoso. Non disse nient'altro. Dopo qualche minuto di scarabocchi, la guaritrice alzò di nuovo lo sguardo. A meno che lo specialista non abbia obiezioni, resterà in infermeria una settimana per il recupero, prima di essere processata. La cosa ti darà il tempo di acclimatarti di nuovo alla luce e al suono, e di sottoporti alla terapia di cui hai bisogno per il recupero dalla tortura e da quella commozione cerebrale che ti sei procurata durante il check-up. La guaritrice iniziò ad allontanarsi, ma poi si fermò. Spero che questo intervento non sia necessario, ma suppongo che, data la tua casa e la tua storia, dovrei dirtelo lo stesso. Tu sei ad un bivio in questo momento, signorina Granger. Ciò che ti accadrà in seguito è inevitabile, ma puoi scegliere quanto spiacevole sarà. Era un consiglio da Dio, una minaccia, un avvertimento. Non era del tutto sicura. La guaritrice scomparve dietro la tenda. Guardò attentamente l'ambiente circostante. Era ancora Hogwarts. Le avevano tolto la divisa della prigione e l'avevano cambiata in un camice da ospedale. Tirando sulle maniche, notò con disappunto che nessuno aveva commesso l'errore di togliere le manette chiuse intorno ai polsi. Ne tenne una davanti al viso per ispezionarle. Le erano state fissate immediatamente prima che fosse imprigionata nella sua cella. E non aveva mai avuto la possibilità di vedere veramente com'erano. Alla luce sembravano semplicemente un paio di braccialetti intorno al polso. brillavano come un penny nuovo. Erano placcati in rame, come aveva intuito. Nell'oscurità della cella aveva passato un'infinità di tempo a cercare di capire esattamente cosa fossero. La risposta più semplice era che sopprimevano la sua magia. Come esattamente lo facessero e come avrebbe potuto aggirarle mentre era cieca e muta, le aveva richiesto molta riflessione. Quando finalmente aveva ammesso a se stessa che era impossibile toglierle, aveva cominciato a capire come funzionavano. Odiava e ammirava allo stesso tempo chiunque le avesse sviluppate. Era certa, dal modo in cui il rame conduceva la magia, che in ognuna di esse ci fosse un'anima di cuore di drago, forse presa dalla sua stessa bacchetta. Le manette sembravano specificatamente in sintonia con lei. Nella cella, durante tutti i suoi tentativi di fare incantesimi senza bacchetta, la magia le scivolava lungo le braccia, verso le mani per uscire e poi si dissolveva appena raggiungeva le manette. Confermando ora a se stessa che erano di rame, capì immediatamente come funzionavano. Il rame risucchiava la magia. Ricordava che Vince aveva tenuto una lezione di storia della magia sui tentativi di usare materiali diversi dal legno per le bacchette. Il rame era stata una delle scelte ovvie per la sua naturale conducibilità della magia. Sfortunatamente era troppo conduttivo. Risucchiava ogni guizzo di magia che rilevava, che fosse voluto o meno. Gli incantesimi partivano dalle bacchette di rame prima che un mago potesse finire di lanciarli. Potevano a malapena toccare le bacchette senza farle esplodere. Due laboratori di bacchette saltate in aria e la perdita di quattro dita dei piedi avevano convinto i produttori a provare qualcosa di diverso. Il nucleo delle manette, Hermione ne era certa, era di ferro. Il rame accoppiato con la corda del cuore di drago catturava la sua magia e poi la depositava nell'anima di ferro dove veniva efficacemente neutralizzata. La sua ingenuità la fece ribollire. Le manette di ferro erano abbastanza comuni nelle prigioni dei maghi. Smorzavano la magia abbastanza da impedire ai prigionieri di lanciare qualcosa di potente. Era sempre stato impossibile neutralizzare completamente la magia di una strega o di un mago con il ferro. Potevano sempre spingerne un po' oltre o lasciarla accumulare fino a quando non si raccoglieva in un'ondata di magia accidentale che esplodeva. Il rame risolveva il problema. Con la sua conduttività, specialmente aiutata da un nucleo magico che corrispondeva alla bacchetta del prigioniero, avrebbe risucchiato quasi ogni scintilla di magia che poteva costruire. L'avevano effettivamente reso una babbana.